Io le lascio non solo la parola, ma la direzione di tutto. Quindi. Voglio solamente ringraziare davvero per aver accettato l'invito a tenere qui il seminario, un seminario che interesse veramente particolare, sia per la personalità del professor Gambasini, che tutti conoscono, dalle ricerche appunto sulla religiosità e sul movimento cattolico del secolo scorso, che ha spaziato dal volume, ma qui sono solo saggi, insomma, ecco, che abbiamo estratto dalla biblioteca stamattina, Gerarchia e laicato in Italia nel secondo Ottocento, a interventi sulla condizione dei parroci e contadini nel Veneto alla fine dell'Ottocento e altri studi, non solo per dire qualche cosina, penso, insomma. Fino a invece studi sul meridione, che hanno portato, sì, quando è la prima volta che li ho visti, dico, ma cosa succede? Che è uscito dal Veneto ed è arrivato in Sicilia, religiosa magnificenza e plebi in Sicilia nel XIX secolo. Una vastità di interventi che gli permette appunto di avere un panorama pressoché unico appunto nel mondo interessato alla storia religiosa dell'Ottocento. Il tema specifico poi che lui ci presenta è, direi, appunto nella linea più cara al nostro istituto, perché si tratta delle relazioni, dei rapporti, dei paralleli tra due istituzioni, la Facoltà Teologica di Padova e il Frentaneum di Vienna, direi secondo uno schema che è quello del nostro istituto, molto semplicemente, insomma, cioè di cercare di capire le interrelazioni tra il mondo austriaco e tedesco in generale con l'italiano. Quindi è un tema che è caro in modo particolare anche a coloro come me che non sono esperti invece sul tema specifico che ci viene presentato, ma proprio per questo appunto siamo pronti ad imparare. Ecco, quindi la parola al professor Gambasini, lo schema che mi pare più di questo, cioè facciamo un'ora, tre rapporti. Lo schema di lavoro questa mattina è abbastanza semplice ed anche il pomeriggio. Mi proporrei di dire alcune cose sulla facoltà teologica a Padova, universitaria, 1815-1873. Però mi fermerò un po' prima, momento della fondazione, il periodo che va fino al 1848, le caratteristiche. Comunque si tratta anche per questa di una istituzione morta, quindi sepolta non c'è rimasto proprio più niente. Poi, forse è meglio che continui lo sviluppo su un'altra istituzione, pure non esiste più niente, l'archivio l'ho trovato casualmente lassù a Vienna. Mattieni è un perseguitato ungherese, un sacerdote che si trova all'istituto di San Tommaso, attualmente di San Tommaso, e insomma sono entrato in buona amicizia con questo perseguitato, mi ha mostrato anche le battiture e botte prese, e così mi ha messo dentro in tutto quanto questo mondo dell'antico Frentaneum dall'abate Giacomo Frint, fondato nel 1816, progettato negli anni 14-15, nell'ottobre 26 si è fatta l'apertura ed è finito con la dinastia Asburgo 1918. Poi è continuato, ma sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Vienna, con altri nomi, anche il collegio di San Tommaso, eccetera, ma non ha più niente a che vedere con il Frentaneum. Perciò si tratta anche di questa istituzione che non ha più avuto seguito, però dagli archivi, queste carte che erano ancora montichiate, anche non studiate, altre invece ne aveva visto uno studioso con Lloyd, un suo laureato, aveva fatto un lavoro di ricerca, però nell'archivio del seminario, poi l'archivio dell'università ed anche lo Staatsarchiv. Comunque a me mi ha fatto impressione questo, che da queste carte che erano lì dentro, circa 1000, ho qui l'elenco, circa 1000 studenti sono passati attraverso queste istituzioni. E tra questi 1000, 850 hanno avuto il titolo di dottore in teologia. Fra questi ultimi ci sono anche 11 cardinali, fino al 1800. E poi uomini di grande valore nella storia e vita della Chiesa ottocentesca, e anche Strossmayr, per esempio, chi non ricorda, è passato per questa scuola. Qui in Italia Aporti, metodo Aporti, ecco un altro nome prestigioso viene fuori da questa scuola. Valbusa è qui un trentino che ha insegnato a Padova e ha portato nel nostro Veneto il metodo storico critico nella studi biblici, è lui che l'ha piantato da noi come novità assoluta, e tanto per accennare alcuni nomi di un certo rilievo. Così pure lo stesso Frint, che è uno, e Wagner un altro, sono tra i pionieri del romanticismo cattolico, quello spinto cui poi si trova anche Offenbauer. Ebbene, mi hanno impressionato alcuni nomi e ho pensato che, pur essendo del passato, forse un'analisi di questo istituto potrebbe servire per capire un certo mondo almeno culturale. Per citare alcuni dati ancora del nostro mondo lombardo-veneto, nel periodo austriaco, il cardinal Ballerini, per esempio, viene fuori da questo mondo. Il nostro seminario lombardo, ecco qui siamo tra i lombardisti presenti, ha preso statuti modello da questo Frintaneum. È interessante, ha fatto un confronto, viene fuori una cosa. No? Alcuni testi di teologia che sono passati nelle mani dei chierici dei seminari lombardi e veneti tra gli anni 48-49 fino agli anni 70, 69-70, con la Uzzi, eccetera, Nardi ed altri, sono venuti fuori pure da questa scuola. E questo Agostini, cioè, un professore di teologia biblica, di studi biblici, Nuovo Testamento, esce dal Frintaneum. Così pure Piotto, una studiosa di storia della Chiesa, da cui viene fuori Balan. Ebbene, ecco, tanto Balan dice qualche cosa nel nostro mondo. Pertile, invece un notevole studioso di diritto canonico ed ecclesiastico, anche da questo. E viene fuori però anche un personaggio curioso che la polizia nel 48 ha inseguito in tutte le parti, non è riuscito a prenderlo, è un certo Pittana. Pittana è un prete che viene dalla Concordia ed è un risorgimentista, quindi una cosa curiosa, c'avevano un anarchico dentro in casa, faceva gli studi, andava a scuola, quindi anti-impero, si era rifugiato in Sicilia, interessante per i suoi rilievi, gli studi fatti, i rilievi meglio fatti sul mondo siciliano. Così un altro nome, Casati, questo è un lombardo che ha pure avuto un certo rilievo nella storia, così ecclesiastica e anche culturale. Bene. Ma sono migliaia, non voglio tediarvi con questi nomi. E così ho ritenuto che forse vale la pena, dopo gli studi sulla Sicilia, gli studi sul movimento cattolico e i parroci contadini, che io tentassi quest'altra strada. È un po' un inedito, perché sul Frintaneum non esiste pressoché niente, è situato qualche lavoro del Loidler, Lloyd Dennis, ma è ancora inedito. E poi c'è sulla facoltà teologica di Padova, non c'è proprio niente in senso assoluto, cioè buio, pesto, una tomba e la pietra sopra la tomba anche molto pesante. Adesso sto tentando di rivangare qualcosa, perciò adesso direi di distribuire così il tempo. Io leggerei alcune pagine che usciranno in un lavoro miscellaneo fra pochi mesi sulla riapertura della facoltà teologica al Bo di Padova, una creatura di Francesco I. alcune caratteristiche e la novità assoluta della teologia pastorale. Poi un altro inedito, questo del tutto, uscirà tra non molto nella rivista del nostro archivio, per lo studio dell'archivio storico dell'Università di Padova. È sul Trintaneum, l'ideatore, l'idea e la realtà, il progetto e la realtà. Pomeriggio, ma forse non so dato, non so cosa ci sarà il pomeriggio, pensavo di fare il confronto tra l'immagine ideale di pastore d'anime, del buon pastore, come era presentato nella Università di Vienna, Reichenberg in modo particolare, e come poi viene, e come invece viene presentato qui a Padova. Dal punto di vista concettuale, quindi la teologia pastorale come scienza d'arte, e poi dal punto di vista anche operativo, le due immagini messe a confronto. Io pensavo di questo riservarlo al pomeriggio, ma non so, mi direte voi che cosa devo fare. Intanto io comincerei con la lettura della prima parte. Penso che sia meglio leggere, così sapete insomma che insomma, finisco anche a un certo punto e non insomma, vado poi così. Sono discorsi di divagazione, eccetera. Il 12 settembre 1815 il governatore di Venezia, conte Pietro di Goes, notificò al reggente de Franceschinis dell'Università di Padova una sovrana risoluzione. A Padova e a Pavia si dovevano riaprire le facoltà medico, chirurgico, farmaceutica, politico, legale, filosofico, matematica. Soltanto a Padova anche la facoltà teologica, soppressa dal cessato governo francese napoleonico nel 1807. La riapertura della facoltà teologica, precisava il conte de Goes, non era effetto di mero opportunismo, ma rispondeva ad un disegno culturale più ampio, di creare sul fronte sud dell'impero un terzo polo di studi teologici che doveva adeguarsi in tutto nella disciplina e nei programmi alle rinomate facoltà teologiche di Praga e di Vienna, così che ad un sistema triangolare se ne subentra un altro. Il sistema triangolare napoleonico era Pavia, Padova e Bologna, però senza la facoltà teologica. Quindi il portico teologico di Pavia era chiuso, anche se era stato un luogo pioneristico di metodi e esperienze teologiche con Maria Teresa. Voleva Francesco I dare lustro e decoro all'Ateneo di Padova con la vista di facilitare via maggiormente i mezzi ai progressi nella carriera delle scienze e delle lettere, e riunire un completo corso di morale e di scientifica educazione capace non solo di coltivare l'intelletto della gioventù, ma di formarne e sian Dio lo spirito ed il cuore, cito le parole testuali, e per avvicinarsi compatibilmente con le speciali circostanze di queste venete province al metodo già in corso in tutte le università dell'austriaca monarchia, compresa pure quella di Pavia, ed agevolare l'introduzione in quella forma stabile di insegnamento che piacerà in seguito di ordinare a Sua Maestà Imperiale, Regia Augusta. Questo è il 12 settembre 1815. Fino a nuove disposizioni, il corso degli studi teologici rimaneva regolato nel modo seguente. La durata era di 3 anni. Fondamentalmente nel primo anno scienze storiche bibliche, la novità giuseppina di Maria Teresa. Poi secondo, le discipline dommatico-morale. Terzo, pastorali canonistiche. Di fatto poi, almeno in via provvisoria, non fu così. Lingue orientali ed esegesi, storia della Chiesa, pastorale nel primo anno, e pastorale e ripetitiva nel secondo e terzo anno. questo è importante. Dogma e morale è un anno, secondo. Poi diritto canonico e pastorale di nuovo, terzo anno. Pastorale però era un insieme di discipline, una novità assoluta da noi. C'era catechetica, c'era didattica, c'era anche pedagogia. E questo era novità. Il piano degli studi era obbligatorio ai fini della laurea dottorale in teologia per tutti i chierici delle diocesi di Padova, e Padova subito venne elevata a livello di seminario generale, secondo già il criterio di Innsbruck, Graz e Vienna, erano tre i seminari generali, e per una percentuale di un chierico ogni 40 parrocchie per rimanenti 22 diocesi del Lombardo-Veneto austriaco. Si passò dalla provvisoria alla definitiva sistemazione con la sovrana risoluzione del 7 dicembre 1816. Le due università, con sedi l'una a Pavia e l'altra a Padova, rimanevano stabilmente riconosciute. In ambedue devono sussistere tre facoltà, recita il decreto, cioè la legale, la medica e la filosofica, ma la teologica sussisterà previamente soltanto in quella di Padova, finché si troveranno professori sufficienti per fondare anche nella Lombardia un intero studio teologico, che sarà allora posto a Milano sotto la sorveglianza di quell'arcivescovo. Difatti non venne mai costituita, così durante questo periodo non ci fu la facoltà teologica. Quindi un dato importante, finisce l'epoca del portico teologico, questo è un dato molto importante, chiuso. Casomai c'è una storia della teologia, c'è, incomincerà su altre basi, con altri schemi, altri progetti, eccetera, no? Agganciata a Roma in ogni caso. Durante il periodo austriaco, una seconda facoltà teologica non sorgerà né a Milano né altrove. Il portico teologico di Pavia, un centro importante di tutto il movimento giansenistico nell'Alta Italia, rimarrà definitivamente soppresso. Quella di Padova rimarrà l'unica per l'Istria, il Friuli, il Veneto e la Lombardia. A Padova, secondo il sistema giuseppino, venne eretto accanto alla facoltà anche il seminario centrale, quindi a quattro, chiamato centrale, di fatto era generale, non era edizione generale, edizione giuseppina, per accogliere un adeguato numero di giovani atti in ogni riguardo, cito, per studiare l'intera teologia e perfezionarsi debitamente. I superiori e i prefetti, proposti dagli rispettivi vescovi, ricevevano nomina e stipendio dall'imperatore, che si era impegnato a provvedere pure della futura erezione di buoni studi diocesani dopo l'organizzazione dell'università. Studi diocesani sottoposti al controllo pieno del direttore dello studio teologico universitario, senza autonomia. Il vescovo era subordinato a questa direzione statale e universitaria. Dall'anno accademico 1817-1818 il piano degli studi, già delineato nelle linee essenziali del Rautenstrauch ed attuato da Maria Teresa nei territori austriaci, divenne operativo a Padova. Il conte Pietro di Goes, nella circolare 17 luglio 1817, fece sapere al rettore magnifico Giovanni Giuseppe Antonio Cappellari di Udine che la volontà imperiale era assolutamente vincolante sui metodi e contenuti dei due cattedre, il diritto canonico, la teologia pastorale. I titolari non potevano scostarsi dei testi prescritti, Enchiridion Iuris Ecclesiastici di Giorgio Reckberger, edito Linz 1809 in due volumi per il diritto ecclesiastico, e il testo di pastorale di Andrea Reichenberger, edito a Vienna 1812 in cinque volumi per la teologia pastorale. Il diritto canonico, recitava il decreto, sarà spiegato completamente come si fa nelle altre università. Allo studio teologico servirà pure di modello la costituzione degli studi di Germania senza alcun cambiamento riguardo alla teologia pastorale. Di nuovo ribadivo un altro decreto, e al diritto canonico, e si dovrà osservare nell'insegnamento stesso anche i riguardi prescritti circa gli alunni teologici che dimostrano minore capacità. cioè l'obbligo in pratica degli esami delle lingue orientali. Nel piano degli studi, comprendente 9 cattedre, di cui 7 ordinarie e 2 straordinarie, il risalto venne dato al diritto ecclesiastico e alla teologia pastorale e manifestava la visione etico-politica della religione intesa come base, principio fondamentale, ma anche codice di norme pratiche di vita per l'impero e il progetto di coordinare gli insegnamenti teorico-sistematici a quelli pratico-applicativi. Cioè, per la prima volta nel Veneto la religione diventava, aveva un rilievo pubblico giuridico, non c'è confronto tra questo tipo, ecco, di rapporto tra Chiesa e Stato con quello veneziano, anche in chiave sarpiana, non c'è confronto. C'è un salto di qualità, casomai la discussione si può approfondire questo aspetto. Durante il primo biennio, le discipline storico-bibliche, lingue orientali, ebraica, caldaica, araba, siriaca, lingua greca, archeologia biblica, ermeneutica, esegesi sublime dell'Antico e Nuovo Testamento, storia della Chiesa, con riflessioni sopra la patrologia e storia letteraria e teologica, si saldavano con il diritto ecclesiastico. Queste discipline, trattate secondo i canoni propri della scienza critico-filologica per accertare il fatto religioso, non erano finalizzate alla ricerca scientifica, bensì alla pratica pastorale di cui il diritto ecclesiastico dava l'ossatura e la struttura istituzionale. Durante il secondo biennio si studiavano dommatica e morale, discipline teorico-sistematiche, non con il metodo scolastico attardato nelle logomachie della dialettica e della logica, ma della moderna filosofia, per esprimere le motivazioni razionali dei principi fondamentali del credere e agire cristiano. Dommatica e morale si collegavano con la teologia pastorale, che avevano come materie complementari pedagogia, catechetica e agraria, per apprendere i criteri pratici di una cura pastorale d'anime illuminata. A Padova, per la prima volta dal 1363, anno della fondazione dello studio teologico, si poneva fine alla tradizione accademica scolastica della teologia patavina. Dal 1815 ne erano del tutto esclusi come discepoli e maestri i religiosi irregolari, che per oltre 5 secoli avevano tenuto il monopolio dello studio teologico al Bon. Ecco un dato molto importante, fine di quella esperienza. Dal 1815 maestri e discepoli furono tutti e solo del clero secolare, sotto la legge, secondo la legge dell'impero. La giurisdizione dei vescovi rimase decapitata anche nei seminari diocesani, soppiantati dal seminario centrale, generale, di fatto l'uno e gli altri subordinati totalmente al direttore della facoltà teologica, di nomina esclusiva imperiale, responsabile non verso il vescovo, ma verso gli organi periferici e centrali dello Stato, come già si era fatto nei territori austriaci. Anche nel Lombardo-Veneto venne introdotto un apparato accademico perfetto sotto ogni riguardo per formare il pastore d'anime in grado di purificare il culto dai residui di magia e superstizione e di educare popolazioni secondo l'Aufklärung cattolico viennese, presentare cioè la religione come fondamento del progresso civile. Un bilancio complessivo sui risultati del sistema teologico dell'impero ci porterebbe molto lontano. Con il Merkle si può asserire che anche nel Lombardo-Veneto il nuovo piano degli studi, da una parte, potenziò la scientificità dell'argomentare teologico, sia per le discipline storico-bibliche che per quelle teorico-sistematiche. Dall'altra, diede maggior rilievo e vigore all'immagine ideale di pastore d'anime dotto e preparato. Anche dopo il tramonto degli Asburgo sopravvisse la prassi che dei più alti pensieri del cristianesimo destinatari privilegiati non fossero circoli ristretti dei frati e degli eruditi, ma i pastori d'anime e i fedeli. Soltanto con gli Asburgo la teologia universitaria divenne piattaforma dei preti secolari, privilegio, si può dire, monopolio del clero diocesano, non per una erudizione dottrinale, ma per un esercizio pratico della cura d'anime. Come nel campo della medicina, la ricerca teorica scientifica era stata finalizzata alla pratica per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni. E cosa curiosa, una ricerca recente fatta dal professor Lazzarini ha dimostrato che il livello, diciamo, della salute pubblica, comparativamente ai dati che ci sono in corso ad altre regioni d'Italia, il livello Veneto è più alto, no? Si pensa al Veneto retrogrado, eccetera. Questo io non voglio chiamare in causa questo problema risorgimentista, antirisorgimentista. Il mio è un lavoro di ricercatore, di studioso, cioè sto constatando insomma delle realtà. Questo discorso non vale per i risorgimentisti, non so, un Cessi mi avrebbe mangiato vivo. Ecco, lo storico deve fare il ricercatore, non so, questo è il mio mestiere, poi giudizio politico se lo facciano i politici. Sì, non so, questo è il mio lavoro, no? Così nel settore della teologia le scienze storico-bibliche e teorico-sistematiche dovevano servire ad ammodernare i metodi della cura d'anime. Un altro dato che emerge, per esempio, è questo, per la studi teologi, per il seminario di Padova. Questo sistema ha posto fine a un periodo umanistico-letterario del seminario, chiuso. Cioè, il periodo Forcellini è finito, è chiuso. E ci sono dei residui, c'è tentativo di far risorgere questi studi umanistici, cioè uno gloriosi, no? Padova, uno Forcellini, uno dei grandi, è finito. Viene fuori invece tutto quel clero che razionalizza, diciamo, anche la cura d'anime e si inserisce nella vicenda della popolazione. Per cui io ho fatto quel lavoro parroci e contadini nel secondo 800, forse una risposta, no, di questo clero attivista anche, che non è pessimista, cioè non è fatalistica di fronte, non ricorre insomma alle benedizioni quando c'è il temporale, no? La grandine, quando ci sono le malattie, invece ricorre a delle strutture, anche dei rimedi scientifici, tecnici. Insomma, questo clero viene fuori da questa scuola, ecco, questo clero che agisce col cervello, agisce con la ragione. Francesco I aveva prescritto che a Padova tutto si facesse a tenore di quanto trovasi stabilito nelle università di Vienna e di Praga. Il seminario generale e la facoltà teologica furono novità indubbiamente importanti nella chiesa e cultura venete. Per sempre tacque la teologia dei frati dei regolari. La ratio studiorum del cardinal Barbarigo fu sostituita in pieno dal piano di studi e dei regolamenti disciplinari di Vienna. Il 1815 è l'anno dell'unificazione e concentrazione del boh della teologia anche per i seminari diocesani. E del 20 novembre 1821 la circolare dell'imperiale regio presidio di Venezia, indirizzata all'abate Francesco Fanzago, direttore dello studio teologico, che dettava norme precise sul coordinamento dei seminari diocesani all'università. Coordinamento organico, cioè strutturale, dal punto anche di vista così pubblico amministrativo. Per i seminari diocesani fu prescritto un piano di studi di 3 anni anziché di 4. Nel primo anno, e così ripete sostanzialmente lo schema, lascio a parte questa pagina che si riferisce. Anche a Chioggia ho visto, c'è tutto il fondo e nessuno ha fatto studi su questi aspetti, no? Del 1815-1866, l'archivio che ho visto, anche la biblioteca, riflette, ma fra tutte la biblioteca che meglio riflette questo schema, diciamo, viennese dell'area danubiana è la biblioteca, l'archivio del seminario di Gorizia, che era, come è noto, no, era contea, eccetera, territorio della corona, è ricchissimo. Quando adesso voglio tuffarmi in quell'Ottocento, aver tutti i volumi che ossivano anche le riviste, si va lì in quella biblioteca, magnifica, stupenda, come no, anche blocco di materiale così poco consultato, ma ben custodito, ben organizzato, per periodo, no? Biblioteca organizzata secondo la cessione del momento storico. A Padova, per esempio, non trovo quasi niente, dispersi questi volumi, introvabili. Per i seminari diocesani, come quelli centrali, valeva la norma, ecco il momento finale, formare abili e capaci sacerdoti destinati per l'esercizio della cura d'anima. Chi furono gli insegnanti? Questo è pure un dato interessante. Chi furono i primi titolari di queste cattedre a Padova? No, 7 erano ordinari e 2 straordinarie cattedre. Uno è un prestigioso uomo, Simeone Assemani, i cui studi, una famiglia di Assemani, erano studiosi, specialisti, orientalisti. È proprio una famiglia. C'è qui l'Assemani Patavino, professore di lingue orientali e di esegesi sublime vetero testamentaria, veniva dalla famiglia siriana di Tripoli, della Siria, sacerdote maronita, venne latinizzato nel suo rito per concessione papale, e era nipote dei celebri, Pio VI, nipote dei celebri orientalisti Giuseppe Simeone e Giuseppe Luigi Assemani, tutti questi, i loro testi si trovano anche lassù a Frintaneum, erano consultati, strumenti di ricerca. Divenne amico di un uomo patrizio molto potente, Jacopo Nani, e questo li procurò perché ha fatto un servizio famiglia, il catalogo dei manoscritti della biblioteca familiare di questo patrizio, e questo, diciamo, servizio l'ha introdotto prima nel seminario di Padova, all'epoca dei Giustiniani, un vescovo molto potente della famiglia nobiliare patriziale. E così è entrato anche all'università nel 1807 ed è sopravvissuto a tutte le traversie, cioè tutti i passaggi. Non hanno cambiato il posto di quest'uomo, che aveva il prestigio, oltre che la protezione, che aveva il prestigio soprattutto. La dommatica era affidata a Tommaso Tommasoni, un ex domenicano, un domenicano esclaustrato. Tommaso Tommasoni rappresenta a Padova l'inizio del neotomismo. Cioè, a Padova si litigavano fino agli anni 70-71 due correnti, gli scottisti e i tomisti, in continuo litigio fra di loro, oltre altri, insomma, litigi, altre divisioni, ma fondamentalmente Tommasoni, ecco, supirò mettendo le premesse per l'indirizzo neotomista. Che cosa voglia dire? Ancora non si è studiato questo personaggio, è un inedito pure assoluto. In storia ecclesiastica venne nominato un uomo nuovo che dice niente, Zandonella, che durante il periodo napoleonico insegnò logica e metafisica al liceo di Belluno, liceo fondato da Napoleone, soppresso nel 1816 con gli Asburgo. Teologia morale, invece, c'è una figura molto importante, fu vescovo di Venezia, viene da Udine, però era cresciuto a Gorizia, nel seminario generale di Gorizia centrale, Giovanni Giuseppe Cappellaris, professore del seminario di morale. Era già a Udine questo. Beh, bisogna ricordare tutti i rimescolamenti fatti nella zona est, ma lasciamo stare, non ci riporto, ho già detto qualche cosa in quel convegno, lasciamo, casomai più non vale la pena. Invece, nella teologia pastorale abbiamo un uomo nuovo. Ed è questa una delle figure più significative del primo periodo, sul quale sto facendo ricerche, già ho dei dati, sono anche abbastanza concreti per così raffigurarlo e presentarlo, è Giovanni Prosdocimo Zabeo. Questa è una figura importante perché è autore di un trattato di teologia pastorale, ed è il primo trattato fatto per la scuola scritto in Italia. Finora si conoscevano trattati, però tradotti, c'era Obstreit, però tradotto, no? Reichenberger, tradotto, eccetera, tradotto, ma questo è il primo scritto in Italia. E venne adottato nel seminario del Lombardo-Veneto fino al 66, sostituito poi da altri manuali di altro genere. Il direttore era l'abate Francesco Fanzago, perciò la figura chiave è lo Zabeo. Vorrei intrattenermi il pomeriggio su questo, casomai, per dire qualche cosa. I testi erano quelli di Vienna, Kliffel, Schröder, Faber, Dannemeyer, per la storia della Chiesa, Reichenberger, eccetera. Più importante di tutto è per noi qui nell'ambiente veneto la teologia pastorale, novità assoluta. Era già stata introdotta all'epoca di Maria Teresa tra il 1786 e 1795 nel Portico Teologico di Pavia, per i chierici della diocesi della Lombardia austriaca e venne restaurata qui da noi nel Veneto, con una differenza fondamentale che a Pavia si usava un testo, lo Streit, prima era Eichenberg, qui invece si usò un testo del tutto nuovo, ma su questo casomai è meglio che ci intratteniamo al pomeriggio. Vorrei invece dirvi qualche cosa dopo questa introduzione sulla struttura e la fondazione della facoltà teologica, qualche cosa del Frintaneum, forse meglio che facciamo tutto insieme il discorso, perché a mezzogiorno un quarto finisce, oppure interrompiamo e se voi mi interpellate posso aggiungere qualcos'altro sulla facoltà teologica, oppure dico qualche cosa sull'origine, fondazione, impostazione del Frintaneum, non so, ditemi voi. Che sono già le 10, sono già le 10. Ci sono una serie di domande su questo, se ci sono, se no continuare. Continuiamo così, diciamo. Ecco, forse facciamo. Passiamo ad un altro mondo. La coincidenza cronologica. 1815 a Padova, è una novità assoluta, ho detto, questa facoltà teologica di Padova. È una creatura nuova. Domanda che forse farà dopo. Sì. Se puoi fare è meglio, sì. Sì, sì. Cioè, veramente mi sto domandando, cioè, in questi anni qui, in quale misura il giuseppinismo classico, vero che i più ritengono tramontato, roba del secolo precedente, veramente si impianta e si organizza. Mi pare di intravedere anche da queste preferenze, dai programmi, eccetera, che è proprio. Giuseppinismo in pieno che qui viene applicato capillarmente, sì, sì. Lo pongo come domanda, sì, sì. No? Sì, il giuseppinismo in pieno, sì, soltanto appunto che non sto adesso portando avanti questa ricerca e mi propongo piano piano di concluderla, perché mi sono partito con un progetto. Ah beh, sì, facciamo le domande prima. No, sì. Questa forse non è tanto una domanda quanto una risposta per quello che riguarda Bressanone. Bressanone, il seminario è stato riaperto nel 1822-23 e ovviamente ci sono pure questi testi, Nannenmeyer, la storia ecclesiastica, prescritti dall'Austria. Però è interessante che, per esempio, i professori, il professor Simmel, per esempio, sì. E lo so perché ho studiato un po' Kassel, eccetera, che poi era suo alunno, sì. Poi cercano di boicottare addirittura questo giuseppinismo, e anzi anche i professori. Quindi il professor Stinnard, per esempio, deve usare questo testo, però si trova continuamente, diciamo, a litigare quel testo. Ed è proprio questo che poi non piace nemmeno agli studenti. Gli studenti ovviamente pure preferirebbero, diciamo, cioè si vede ormai, si nota l'inizio di un certo ultramontanesimo. A Bressanone, questo sì, sì. Anche Staff, anche Staff, no? Il moralista. Sì, Staff, è chiaro. Abbastanza noto. Ed è il problema anche di questo Zabeo che entra. E questo inizio di una facoltà teologica, no, tutta viennese, però con uomini come Tommasoni, che era un neotomista, è venuto proprio dalla scuola veneta. Ed era una figura, insomma, un cervello forte, ecco, Tommasoni. Però l'impianto mi pare adesso, trattandosi di una facoltà nuova poi è molto importante, l'impianto mi sembra classico, sì, sì. Giuseppe. Le reti di Pavia diverse, ecco, sì. Ispirazione, si comincia qualcosa di nuovo, ma certamente non so io fino a che punto i vescovi qui sono stati interpellati, io è stato tenuto conto dei vescovi veneti, i vescovi veneti è uno schema importante. E preso proprio dalle categorie del giuseppinismo. Sì. Non voglio dire con questo che sia stato uno schema dannoso, perché l'altro problema da impostare sarebbe vedere se alla Chiesa delle regioni venete questo sistema austriaco abbia dato più male o più bene, perché tutto sommato mi pare di capire che ha portato dei contenuti decisamente positivi guardandoli a una certa distanza. Sì, ecco. Acquisito anche sì. Questo. No, per esempio, no, ecco, non accendo così poi il discorso può continuare, non per esaurire così con questa risposta. Anch'io mi fermo. Sì, ma non per esaurire poi il problema, Perché è importante la teologia pastorale? Perché di fatto, ecco, a parte i contenuti, che poi adesso anche lei vuole, sì, a parte i contenuti, è di fatto divenuta fino al 1859, fino al primo concilio regionale, primo concilio regionale Veneto, primo nella storia, bene? Di fatto il testo di teologia pastorale era sostitutivo del diritto canonico sinodale. Questo è un dato importante. Cioè, da quel momento le norme di questo insomma, Reichenbergen, in pratica qui invece furono quelle dello Zabeo, quelle norme, indicazioni, erano sostitutive. Cioè si riteneva che anche su un piano operativo concreto il testo, quindi la cattedra, fosse sostitutiva anche per le cose più minute della cura pastorale, non so, la liturgia, la cura dei malati. Noi sappiamo, no, quanto i sinodi sono meticolosi, precisi, rapporti parroci e cappellani, non so, rapporti, la predica, come si fa, la fedeltà alla liturgia romana. Bene, ecco, questo diventa il codice di leggi anche sinodali, potremmo dire, no? In pieno sostitutivi. Poi c'è, secondo accenno, un altro problema. Nel 37, di fatto, data la resistenza di questi vescovi veneti a questo sistema, come del resto i lombardi, no, a fine 700 non fatto resistenza, c'è stata un'inchiesta fatta, io l'ho cercata, mi sono fatto dalle mani, se qualcuno mi dà le mani in questa ricerca, sono molto grato per trovare le risposte, non sono forse smarrite, una inchiesta dell'imperatore presso tutti i vescovi, e poi fu allargata anche a qualche altro personaggio del clero, per avere una risposta concreta su cosa dicevano e cosa pensavano i vescovi di questo sistema. C'è tutta una serie di domande, ho trovato il questionario, ma non ho trovato. Sarebbe interessante una risposta ufficiale, ecco, dei vescovi, per questo problema. Lo stesso problema che ha posto la Vangelo, c'era Ferrari. Per il giansenismo. Sì. Ho letto recentemente le opere di un parroco bresciano giansenista, di Guadagnini, che era legato a Tamburito, eccetera. E queste opere dei Guadagnini, sulla Via Crucis, su Arnaldo da Brescia e sulla vita pastorale in genere, si ispirano agli stessi concetti che tu hai esposto adesso come base dell'insegnamento della pastorale, cioè la pastorale ispirata alla teologia, la Bibbia è la base di tutto, è una lotta contro le superstizioni, quindi un rito più purificato, eccetera. Ecco, l'altro problema è che ti pongo come quesito, è in quel programma, poi magari te lo dovrai meglio nelle successive. Mi pare che ci sia uno sforzo di superamento di quello che si suol chiamare la controriforma e un recupero di elementi di quello che si suol chiamare il riforma cattolica. No? Ecco. Sì. Dunque, anche lei si mette così, sì, facciamo circolare un po' di problemi. Un intervento molto breve sollecitato dal chiamo Giuseppinismo. Io ho studiato la facoltà di insegnamento del diritto canonico in questo periodo all'università di Padova, e a me sembrava di poter giungere a queste conclusioni sul punto suscitato, che una fase schiettamente giuseppinistica vi è fino all'inizio degli anni 40, 1840, fino a questo periodo, fase in cui il testo di diritto canonico è il Reichenberger, che è un testo di orientamento giuseppinistico, e non vi sono forti personalità di insegnanti di diritto canonico nella facoltà. Il diritto canonico è insegnato sia nella facoltà giuridica che in quella teologica, quindi si chiama a cavallo su due. Invece mi sembra che sia una svolta quando a insegnare diritto canonico arriva Nardi, che è nel 1843, sia per il tipo di personaggio che era Nardi, che era più un tramontano da questo punto di vista, che era più dalla parte del Papa che da quella dell'imperatore, sia anche perché Nardi non adotta più il Reichenberger come testo, ma adotta il proprio testo, che sono gli elementi di rito ecclesiastico, che ha un'impostazione significativamente diversa, cioè pone molto più l'accento sulla necessità di collaborazione tra i due poteri e sulla superiorità di questa collaborazione del potere papale rispetto a quello imperiale. Quindi secondo me lì c'è un punto di passaggio. Questa considerazione mi sollecitava una domanda che volevo fare al professor Gambadini, che era questa. E mi sembrava che nell'ordinamento della facoltà teologica il posto lasciato al diritto canonico fosse rilevante in questo senso, cioè nel senso che su questo settore il diritto canonico l'autorità imperiale, l'imperatore, si riservasse un controllo particolare, no? Abbiamo visto nel 1817 in cui diceva che si deve rispettare la volontà dell'imperatore in maniera diretta. E mi sembrava che forse questo elemento, rilievo del diritto canonico e il controllo dell'imperatore sul suo insegnamento, fosse da mettersi in collegamento con quell'altro aspetto che lei ha posto in luce, cioè il rilievo pubblico che acquista la religione nel Veneto. È la prima volta, lei diceva, che dopo la Repubblica Veneta, dopo Napoleone, la religione diventa un fatto pubblico. Allora questo potrebbe essere interessante per spiegare perché si vuole controllare il diritto canonico in maniera particolarmente pressante, visto questo rilievo della religione, rilievo pubblico della religione. Concludo la domanda. Se è vero l'ipotesi che dicevo, cioè che a partire dagli anni 40 c'è una caratterizzazione in senso un po' filo papale, ultramontana, dell'insegnamento del diritto canonico, si può trovare in questo elemento una delle radici, delle caratteristiche, diciamo così, ultramontane del clero veneto, delle caratteristiche di fedeltà al papato che caratterizzano il clero veneto anche dopo l'unificazione, nel periodo della Chiesa cattolica, per la Gentile, eccetera? Sì, sì, posso rispondere in due. Sotto due profili. Cioè, prima, il problema del diritto canonico in rapporto al rilievo pubblico della religione, della Chiesa. Ora, anche da testi che sto vedendo, inediti, riguardanti il Trinitaneum, Francesco I, in sostanza, è più vicino a Giuseppe II che non a me parso, insomma, così, meno per quanto riguarda questo aspetto della cultura ecclesiastica, poi dell'impostazione anche dei rapporti Chiesa e Stato, più vicino a Leopoldo, a Giuseppe II, che non a Leopoldo II, cioè mi pare che ha un'anima, diciamo, giuseppina molto più accentuata. E allora, la sostanza di quest'anima giuseppina, l'idea che mi sono fatto, cosa mi illuminate su questo punto, era questo, che una riforma, ecco, anche per me della riforma, una riforma che partisse da Roma voleva dire riforma curialista per decreti. Questo è il discorso. Perciò abbandonare per certi aspetti la riforma, quindi soprattutto il cervello di questa riforma, il cuore di questa riforma, cioè l'intelligenza, no, di questi preti considerati leader dell'Hof Clerum, di questo illuminismo, abbandonarla in mano alla sovranità del Papa, diciamola così, no? Al papato, al primato, era quanto dire affossarla in una serie di decreti. Mentre, dopo le sfide, insomma, di questi regnanti, di questi imperatori della casa Asburgo contro tutti i nemici che hanno incontrato nella propria strada, l'ultimo, i diavoli che venivano dall'Occidente, questa volta non più dal sud i musulmani, non più dal nord i demonizzati, i protestanti, no? Non più quelli. Allora l'ultima battaglia vinta, poi anche questa battaglia, insomma, ha fatto, mi pare, riscoprire in Francesco I questa idea, cioè che la battaglia ormai è un clima di tolleranza, bisogna ricordarsi il decreto tolleranza 1283, in questo clima di tolleranza, primo, poi con presenza di ben 17, se non sbaglio, nazioni, con etnie, con lingue diverse, di riti pure diversi, c'era il rito anche cattolico, no? Oltre che il rito ortodosso, eccetera, di vari poi gruppi, insomma, di anche riti religiosi, con la propria lingua, e il Trinitaneum in embrione era in questo, insomma, questo mondo, no? La compresenza di queste varie nazioni, riti, culture, eccetera. A questo punto la sfida va fatta sullo stesso livello, diciamo, degli avversari, cioè i migliori avversari, dicevano loro. Quindi, nel campo biblico, chi era all'avanguardia? I protestanti. Benissimo, la sfida l'ha fatta su quel livello. Ecco, non so, Jan ragionava in questo modo, no? Così pure anche ad altri livelli. Ma chi gestisse tutto questo? Gestisse tutto questo l'imperatore, che anche in altri campi, dell'economia, della politica, pubblica amministrazione soprattutto, ha fatto le grandi riforme, cioè ha sfidato, diciamo, altri vari, allora, corti, regni, imperi di quell'epoca, li ha sfidati su questo terreno. E la sfida nel campo religioso va portata avanti su questo punto, non a base di scomuniche, censure, condanni, decreti, norme, prigioni, è finito in questa epoca. Insomma, la sfida va fatta casomai su questo piano. Ecco, questo per rispondere alla prima, domanda. Perciò l'importanza, già accennata dal professor Molinari, come nel campo della medicina, una medicina che non sia, insomma, chiusa in un cenacolo di altissimi cervelli, però che si capiscono fra di loro e manca il ponte di raccordo con le popolazioni che sono pellagrose, sono malate, vaiolose, eccetera. Così, proprio si citano nei testi, si cita il paragone. Come nella medicina, così. Noi sappiamo che la medicina viene allora era l'epicentro, no? Del progresso. In quel Settecento, sappiamo che fino anche alla metà dell'Ottocento si va a Vienna a studiare medicina, non si va in altri luoghi. Ebbene, non per niente, poi più tardi viene fuori anche psicanalisi, nasce da Vienna, no? Il primo Novecento. Ebbene, così anche nel campo dei teologi, della religione, della Chiesa, così fine del momento, diciamo, religioso, che era anche magico, pieno di statue, madonne, madonette, c'è tutti questi conventi, conventini, litigiosi, beghe, non finire, eccetera, così, questo era il concetto. Però non il tipo napoleonico, questo riformismo ecclesiastico, un riformismo laico, che prevedeva una chiesa impoverita, una chiesa stremezzita, invece una chiesa potenziata, così, prestigiosa. Prestigiosa su quale campo? Il campo della cultura. Così, la Bibbia, il punto di partenza, ecco, il fondamento biblico, critico, storico, fondamento della dogmatica, dogmatica fondamento della morale, non agganciato al codice, la morale, fondamento del diritto canonico, cioè morale, la religione recepita come punto di riferimento per anche un ordine pubblico, il benessere, lo dicevano, il benessere pubblico, il progresso sociale, diceva una parola precisa, diceva, per l'uomo sociale, c'è questo termine, l'uomo, cioè l'uomo inserito nei rapporti interpersonali, ma intersociali, però in un ordine costituito, no? Gerarchizzato, piramidale, no? Secondo quella visione, e la teologia morale e il diritto canonico poi agganciati, meglio, finalizzati alla pastorale intesa come scienza. E qui viene fuori un grosso scarto tra questa impostazione della pastorale viennese, anche da Reichenberg, e quella invece di uno Zabeo che abbiamo citato prima, il quale si rifà invece ad una pastorale di tipo agostiniano come arte, di tipo, sono anche Gregorio Magno, arte. Che cosa voleva dire arte? Voleva dire che allora sul piano di una organizzazione razionale di uffici e poi anche di compiti, tutto questo era di pertinenza di chi? Era pertinenza del vescovo. Torna allora il diritto canonico, i sinodi, tornano i concili, le normative, ed espressione di questa tendenza che supera anche lo Zabeo. Lo Zabeo invece condivideva in sostanza questo concetto, però è una proiezione di arte, di inventiva più che di scienza, no? Questa era l'idea di fondo. L'espressione di questa altra corrente che viene fuori tra gli anni 50 e 60 è il Berengo. E basta confrontare i due testi, o meglio i tre testi, Reichenberg da una parte, Zabeo dall'altra, Berengo, e l'uno, Reichenberg, tra il 700 e l'800, no? Viene fuori insomma in quel clima. Lo Zabeo invece 1815-1825 viene pubblicato, eccetera. Poi l'altro matura invece dopo gli anni 50, 40 l'hai accennato, no? Gli anni 50 e 60, la prima edizione degli anni 63, 62, 63, e poi ci sono altre edizioni, Berengo. Ebbene, il Berengo ha un testo chiamato Encheridion, e l'Encheridion, come il guantone, che cos'è? è un commento proprio pedissequo di norme liturgiche, rituali, e poi di norme canonistiche, cioè concili, poi decreti soprattutto papali, norme sinodali, i sinodi del Veneto, soprattutto un sinodo veneto del 1863, fatto a Venezia 1863. Ecco, siamo tutt'altro. Ma il problema, ecco, tornando a quello di fondo, è che se una riforma di questo genere nel contesto dell'area culturale danubiana, questa riforma non può venire che da una sovranità, questa stessa sovranità che ha pilotato la riforma nel campo economico, nel campo amministrativo, eccetera, insomma, ecco, questo che poi aveva vinto tutte le battaglie, l'ultima contro Napoleone, no? Questa era l'idea, e questa idea è molto evidente, ecco, fino agli anni 40, fino a 35. Dagli anni 40, quando c'è quell'inchiesta, 37 c'è l'inchiesta, e c'è crisi, cioè siamo già in un altro mondo, entra in un'altra fase, no? Ci sono insomma, elementi, forse centrifughe, che sembrano più forti, ecco, di questa forza centripeta organizzativa. Perciò il problema del diritto canonico va inserito un po' su questo schema, è proprio una risposta particolare, insomma. Mi pare di capirlo in questo genere. Il fatto sta che dagli anni 50 in poi, anche come insegnamento, come del resto Bressanone, non c'è più quasi niente di Vienna e del Giuseppinismo. C'è l'ultramontanesimo, è anche ben accentuato, anche per un'altra ragione, che dal 1848, dopo Formerz, in pratica, dopo l'esperienza, l'imperatore concede, dà il permesso a tutti i chierici dei suoi territori, quindi anche i veneti, e negli anni 50 va giù il primo chierico di anche Verona, di andare a Roma a studiare teologia. Cioè, si riapre proprio nel 1849-50, ma dal 1800 c'è un decreto preciso, il 1816, che vieta in modo assoluto, tanto che il Frintaneum è una specie di sostitutivo, cioè di fronte all'obiezione dei vescovi, ma loro in questa maniera, insomma, non abbiamo un istituto superiore nel quale formare specialisti, cioè per il lavoro scientifico, non tanto specialisti per la cura d'anima, specialisti di laboratorio scientifico, ci manca. E Frintaneum è questa risposta. Non so, ecco, questi sono alcuni dati che possono... Sì. La mia forse è una domanda un po' automatica. Ma questa pressione, questo fenomeno di pressione che si è venuto da parte di Vienna nei riguardi dell'impero, si intende anche estesa anche al Trentino, anche alla diocesi di Trento. Sì, sì, sì, sì. Sì, Trento è principato, è escluso, cioè. No, ma soltanto che non fa parte del Lombardo-Veneto. Non fa parte del Lombardo-Veneto. No, ma fino al 1919, fino alla annessione, Trento rimane sotto, cioè dentro questo contesto viennese in senso pieno, in senso quindi sarebbe da studiare, sarebbe da vedere, qui Trento sarebbe da studiare. Per l'ambiente trentino? Ma adesso questo qui, forse lei potrà dire una risposta. Sì, grazie. Partire col vescovo Cider, senz'altro. Sì, ecco. Senz'altro. Sì, ma anche a Bressanone c'è un filone. C'è un filone. Per esempio, i professori vengono scelti dal vescovo Lodron, sì. Cioè che prima si trovano a Innsbruck, alla facoltà. La facoltà poi praticamente viene soppressa. E quindi vengono scelti i professori proprio dal vescovo, che più o meno sono tutti già professori ultramontani. Sì, sì, sono ultramontani. Ma come prendi l'altro? Ecco anche lei. Io sarei un po' più cauto nel fare queste affermazioni, perché... Cioè che ci siano un ultramontanesimo qui? Sì, anche l'uccidere, davvero si può considerare come un ultramontanista. Uccidere, io penso anche in questo giudizio, perché qui il giuseppinismo è stato così vivamente imperante che nel 1913 o 12 o 13, non ricordo con esattezza, il vescovo di Trento, il principe Celestino Ingrici, ha sentito il bisogno, e non è mai stata pubblicata poi, esiste però nell'archivio della Curia, ha sentito il bisogno di preparare addirittura una piccola nota, saranno 100-150 pagine sui riflessi e sulle difficoltà che creava nella Chiesa questa presenza vivacissima fino proprio agli ultimi anni del giuseppinismo. Tanto è che uno dei motivi per cui chiedeva addirittura che il seminario di Trento fosse riservato soltanto per i chierici di lingua italiana e che i chierici della diocesi di Trento, appartenenti al gruppo linguistico tedesco, frequentassero, pur essendo della diocesi di Trento, il seminario di diverso nome, era proprio perché, è vero, lo scritto, l'ha detto anche in una nota diretta al Papa, perché si sentiva vivacissima, avevano la difficoltà di conciliare questa concezione dei rapporti Stato-Chiesa che si era nel Trentino italiano, rispetto a quella che era la concezione proprio nettamente giuseppinista che era seguita ed accettata dal clero di lingua tedesca. Questo per dire che quasi la pressione del giuseppinismo è stata costante fino all'ultimo momento. Ma poi vorrei anche aggiungere che non è molto la tesi del Schindler, perché nel processo di beatificazione del Schindler, una delle piccole accuse che viene mossa dalla congregazione del Sacro Ufficio a Roma è quante divise austriaco giuseppinismo in Russia. Quindi era lui che diceva al giuseppinismo che volte. Ecco, io proporrei però di non approfondire la discussione trentina perché se no tra l'altro non riusciamo nemmeno a invece approfittare del ragione. Sì. Noi oggi dobbiamo essere un po' meno trentini forse e invece cercare di prendere tutto quello che il professor Gambasini ci può dare. Sì, perché dopo lui va via. Sì. Ecco, quindi io penserei che se non siamo troppo stanchi comincia questa seconda parte. Secondo round, sì.